Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Arrivò il 1821. Fabrizio sostenne passabilmente tutti gli esami. Il suo direttore si prese un bel regalo e una decorazione. E finalmente Fabrizio partì per Parma, per la città cui aveva pensato tante volte. Era monsignore adesso e aveva una carrozza con 4 cavalli. All'ultima posta, prima di Parma, ne prese solo 2. Poi, arrivato in città, fece fermare davanti alla chiesa di San Giovanni. In quella chiesa c'era il sontuoso sepolcro dell'arcivescovo Ascanio del Dongo, il suo antenato, l'autore della genealogia latina. Fabrizio si fermò a pregare davanti al sepolcro, poi a piedi andò al palazzo della duchessa. Gina credeva che sarebbe arrivato qualche giorno dopo. C'era molta gente nel salotto, ma poco dopo li lasciarono soli. «E allora sei contenta di me?» le disse Fabrizio abbracciandola. «Lo devo a te se ho passato 4 begli anni a Napoli, invece di stare a Novara a annoiarmi con una amante autorizzata dalla polizia». Gina non riusciva a rimettersi dalla sorpresa. Se lo avesse incontrato per strada non lo avrebbe riconosciuto. Le sembrava uno degli uomini più belli d'Italia e Fabrizio lo era davvero. L'espressione soprattutto era incantevole. Quando era partito per Napoli aveva un'aria sfrontata da scavezzacollo con quel frustino che sembrava far parte del suo corpo. Adesso davanti agli estranei si comportava con calma, con dignità e in privato Gina aveva ritrovato in lui tutto il fuoco della sua prima giovinezza. Era un diamante che non aveva perso niente a essere lavorato. Mosca arrivò che non era passata neanche un'ora, un po' troppo presto. Fabrizio lo ringraziò per l'onorificenza concessa al suo direttore e per altri favori dei quali non osava parlare altrettanto esplicitamente. Fu misurato, perfetto. A Mosca piacque subito, fin dalla prima occhiata. «Questo ragazzo», disse sottovoce alla duchessa, «non potrà che fare onore alla posizione che gli avete destinato». Era passato soltanto un mese dal suo arrivo a corte e Fabrizio aveva tutte le preoccupazioni di un cortigiano. Una sera uscì dal salotto della San Severina. Gli sembrava di aver l'aria dell'amante in carica là dentro. Camminando per le strade, passò per caso davanti al teatro, vide che era illuminato, entrò. Per un uomo della sua condizione era una vera imprudenza e lui si era ripromesso di evitare imprudenze del genere a Parma, che dopo tutto era soltanto una piccola città di 40.000 abitanti. È vero che aveva smesso l'abito talare fin dai primi giorni. La sera, quando non doveva andare in società, si metteva semplicemente un vestito nero, come se fosse il lutto. Per non essere visto, prese un palco di terza fila. Davano la locandiera di Goldoni. Fabrizio guardava l'architettura della sala senza quasi badare al palcoscenico. Ma il pubblico, molto numeroso, continuava a ridere e allora lui diede un'occhiata all'attrice che faceva la parte della locandiera. Era giovane, recitava in modo molto divertente. La guardò con più attenzione. La trovò proprio simpatica e soprattutto piena di spontaneità. Era una ragazzina ingenua, pronta a ridere lei per prima delle battute deliziose che Goldoni le metteva in bocca, come se fosse tutta stupita di dire quello che diceva. Chiese come si chiamava. «Marietta Valserra», gli dissero. «Che strano», pensò. «Ha preso il mio nome». Entrando, era deciso a non fermarsi molto e invece restò a teatro fino alla fine della commedia. Ci tornò anche il giorno dopo. Il terzo giorno si era procurato l'indirizzo di Marietta Valserra e non era stato molto facile. Quella sera si accorse che Mosca era tutto sorrisi con lui. Quel povero amante geloso che stava facendo una fatica tremenda per tenersi nei limiti della prudenza gli aveva messo alle costole delle spie e quella faccenda dell'attrice gli aveva fatto un gran piacere. Il giorno dopo quella sera, in cui era finalmente riuscito a essere gentile con Fabrizio, la gioia di Mosca fu al colmo. Era stato informato che il giovanotto, con indosso un lungo soprabito blu per non farsi riconoscere, aveva salito le scale che portavano al povero appartamento di Marietta Valserra, al 4° piano di una vecchia casa dietro il teatro. Ma Mosca fu ancora più contento quando seppe che Fabrizio si era presentato con un nome falso e aveva avuto l'onore di suscitare la gelosia di un tipaccio, un certo Giletti, che in teatro faceva le parti di cameriere e quando la compagnia girava per le campagne si esibiva in acrobazie sulla corda. Questo nobile amante della Marietta andava in giro insultando Fabrizio e dicendo che lo avrebbe fatto fuori. Alla Marietta Fabrizio piaceva, ma lei aveva una paura tremenda di Giletti, che la sorvegliava da vicino e pretendeva di essere il suo unico padrone. Giletti aveva pedinato Fabrizio, era riuscito a scoprire chi era e ora andava in giro a dire che avrebbe fatto la pelle a Monsignore. Quando le sue spie gli riferirono tutti questi particolari, Mosca si sentì resuscitare. Gli tornò tutto il suo spirito. Non era mai stato così allegro e brillante nel salotto della Sanseverina. Ma si guardò bene dal mettere al corrente la duchessa di quella piccola avventura che gli aveva ridato la vita. Anzi, prese tutte le precauzioni possibili perché lei lo venisse a sapere il più tardi possibile. E finalmente trovò il coraggio di ascoltare la voce della ragione, che da un mese gli gridava inutilmente che quando un amante incomincia a perdere terreno, deve andar via per un po'. Partì per Bologna. Si trattava, a quanto pareva, di un affare molto importante. Ma i corrieri del ministero, che arrivavano due volte al giorno, gli portavano pochi documenti ufficiali e molte notizie degli amori della Marietta, dei furori di Giletti, delle mosse di Fabrizio. Al teatro di Parma un incaricato di Mosca chiese con molta insistenza che si rappresentasse Arlecchino Scheletro, ovvero la torta a sorpresa, un pezzo forte di Giletti. Lui saltava fuori dalla torta nel momento in cui Brighella, il suo rivale, stava per tagliarla e lo prendeva a legnate. Era un pretesto per far avere all'attore una ricompensa di un centinaio di franchi. Giletti, indebitato fino all'osso, si guardò bene dal parlare di quella manna piovuta dal cielo, ma mise su delle arie incredibili. Per Fabrizio ormai non si trattava più di un capriccio. Era una questione di amor proprio. Alla sua età le preoccupazioni lo avevano già ridotto a aver dei capricci. Era per pura vanità che andava a teatro. La ragazzina recitava con molto brio e lui la trovava divertente. Poi, dopo lo spettacolo, si sentiva innamorato. Per un'ora. Quando Mosca fu informato che Fabrizio stava veramente correndo un brutto rischio, tornò a Parma. Giletti aveva combattuto nel bel reggimento dei dragoni di Napoleone, faceva sul serio. Aveva addirittura incominciato a darsi da fare per predisporre la propria fuga in Romagna dopo che avesse ucciso Fabrizio. Fabrizio si incontrò a Belgirate con la madre e una delle sorelle. Belgirate è un grosso villaggio piemontese sulla riva destra del Lago Maggiore. La Marchesa del Dongo doveva pensare alle prossime nozze della figlia maggiore con un duca milanese e poté concedere soltanto 3 giorni al figlio prediletto. Fabrizio aveva visto che il portiere e tutti i domestici erano in lutto strettissimo. «Chi è che ci è morto?» chiese alla duchessa. «Quel brav'uomo che chiamavano mio marito è morto pochi giorni fa a Baden. Mi ha lasciato il palazzo, come eravamo d'accordo, ma in segno di amicizia ci ha aggiunto anche un lascito di 300.000 franchi. Sono piuttosto imbarazzata. Non voglio assolutamente rinunciarci a favore della nipote, la Marchesa Laversi. Non passa giorno che non mi combini qualche brutto scherzo, quella. Tu che te ne intendi, bisognerà che mi trovi qualche bravo scultore. I 300.000 franchi li adopererò per fargli costruire una bella tomba». Fabrizio corse a casa della Marietta. Si sentiva il vocione di Giletti, doveva essere ubriaco, stava spassandosela con i suoi amici, il suggeritore e gli uomini addetti alle luci. A segnale venne fuori solo la vecchia. «Ci sono delle novità», gli disse. «Marietta ti vuole sempre un gran bene, ma è questione che Giletti le fa paura. 3 giorni fa, quando abbiamo dato l'ultimo spettacolo, voleva ucciderla a tutti i costi. Le ha rifilato 2 ceffoni spaventosi, le ha persino rotto lo scialle blu. Sii buono, regalagliene un altro, diremo che l'abbiamo vinto alla lotteria. Domani il tamburo maggiore dei carabinieri farà un'esibizione di scherma, non so bene a che ora, ma c'è sui manifesti, vieni a trovarci. Se Giletti va a vedere l'esibizione, e così possiamo sperare che stia fuori per un po', io verrò alla finestra e ti farò segno di salire. Portaci qualche cosa di carino e vedrai che la Marietta ti vuole un bene dell'anima». Verso le 11 di sera Fabrizio tornò a Palazzo San Severino. Adesso sarebbe il momento d'agire, pensò. Ma fu invano che cercò nel proprio cuore il coraggio di parlare con quella sincerità sublime che gli sembrava così facile la notte che aveva passato in riva al lago. «Finirei per fare del male alla persona cui voglio più bene al mondo. Se parlo, avrò l'aria di un pessimo attore. Io valgo qualcosa solo quando mi entusiasmo». «È davvero ammirevole, Mosca», disse alla duchessa. «E tanto più devo riconoscere che si comporta molto bene, dal momento che mi sembra di non essergli eccessivamente simpatico. Bisogna che sia gentile con lui. A quei suoi scavi, alla sanguigna, deve farci davvero una passione, almeno a giudicare dal viaggio che ha fatto l'altro ieri. 12 leghe al galoppo per stare 2 ore con i suoi operai. Ha scoperto le fondamenta di un tempio e ha paura che trovino qualche pezzo e che glielo portino via. Sto pensando di dirgli che ci andrò io a Sanguigna per un paio di giorni. Domani verso le 5 devo tornare dall'arcivescovo. Potrei partire in serata e fare il viaggio con il fresco». Thank you. Gina per un po' non disse niente. Poi parlò con un tono pieno di affetto. Si direbbe che cerchi tutti i pretesti per stare lontano da me. Sei appena tornato da Belgirate e parli già di ripartire. Adesso sarebbe il momento di parlarle, pensò Fabrizio. Dovrei dirle: io provo per te l'amicizia più devota, eccetera, eccetera, ma il mio cuore è incapace di amare, il che equivale a dire: so che siete innamorata di me, ma state attenta perché io non posso contraccambiare. Se è amore quello che prova per me, Gina potrebbe soffrirci a vedersi scoperta, e se poi mi è soltanto amica, rimarrebbe disgustata dalla mia sfacciataggine, e un'offesa del genere non la si perdona. Assorto in queste ponderose meditazioni, Fabrizio, senza rendersene conto, continuava a andare su e giù per il salotto con un'aria seria, austerissima, come se stesse contemplando qualche disastro imminente. Gina lo guardava piena di ammirazione. Non era più il bambino che lei aveva visto nascere, non era più il nipote sempre pronto a obbedirle. Era un uomo, adesso, un vero uomo, e farsi amare da lui sarebbe stato stupendo. Si alzò dal divano, lo abbracciò stringendolo forte. «Che cosa c'è allora? Vuoi sfuggirmi?» gli disse. «No», le rispose lui con l'aria di un imperatore romano. «Cercavo solo di comportarmi bene». Era una frase che si prestava a molte interpretazioni e Fabrizio non ebbe il coraggio di andare avanti, di correre il rischio di ferire quella donna incantevole. Era troppo giovane lui, troppo facile a emozionarsi, non riusciva a trovare qualche bel giro di parole per far capire quello che voleva dire. Poi, in uno slancio spontaneo e malgrado tutti i suoi ragionamenti, prese tra le braccia quella donna incantevole e la coprì di baci. E in quel momento si sentì il rumore di una carrozza nel cortile. Dopo un attimo Mosca entrò nel salotto. Sembrava molto eccitato. «Sapete far nascere passioni molto strane», disse a Fabrizio. Fabrizio era tutto confuso. Mosca continuò: «Stasera l'arcivescovo è stato ricevuto in udienza da Sua Altezza, come tutti i giovedì. E il principe mi ha raccontato che l'arcivescovo era molto emozionato e che ha cominciato a fargli un discorso complicatissimo, come se l'avesse imparato a memoria. Sulle prime il principe non riusciva a capire. Poi l'Andriani ha finito col dichiarare che era molto importante per la Chiesa di Parma che Monsignor Fabrizio del Dongo fosse nominato primo vicario generale e in seguito, quando avesse compiuto 24 anni, suo coadiutore e successore designato. Mi ha detto con molta semplicità: è una faccenda ufficiale tra me e l'arcivescovo e voi non c'entrate affatto. Quel brav'uomo mi ha sottoposto una specie di rapporto lunghissimo e piuttosto noioso, dopodiché è arrivato a farmi una proposta ufficiale. Gli ho risposto con molta freddezza che la persona in questione era molto giovane e che soprattutto era arrivato a corte da troppo poco tempo, che designando per una carica così importante il figlio di una grossa personalità del Lombardo-Veneto, avrei avuto l'aria di pagare una cambiale emessa dall'imperatore d'Austria a mio nome. L'arcivescovo si è affrettato a dichiarare che non c'era stata nessuna raccomandazione del genere. Una sciocchezza, venirmelo a dire, a me. Non me la sarei aspettata da un tipo esperto come l'Andriani, ma quando parla con me è sempre disorientato e stasera era più emozionato che mai, tanto che ho pensato che doveva tenerci davvero a quella faccenda. Adesso, conte Mosca della Rovere, vi incarico di riferire alla duchessa che non voglio ritardare di 24 ore una cosa che può farle piacere. Mettetevi a quel tavolo e scrivete un biglietto all'arcivescovo per dirgli che accetto la sua proposta, così questa faccenda è sistemata. Ho scritto il biglietto, lui lo ha firmato, mi ha detto: portatelo immediatamente alla duchessa. Eccolo, signora. Per me è stato un pretesto per poter avere la gioia di rivedervi stasera. La duchessa si mise a leggere il biglietto. Era felice. Quanto a Fabrizio, durante il lungo racconto di Mosca, aveva avuto il tempo di riprendersi e così ora non mostrò di essere sorpreso. Prese la cosa da gran signore, come se naturalmente avesse sempre pensato di aver diritto a quella straordinaria promozione, a quel colpo di fortuna che avrebbe sconvolto una persona qualunque. Fu molto misurato nel parlare della sua riconoscenza e finì per dire a Mosca: Un buon cortigiano deve mostrare di apprezzare ciò che appassiona le persone importanti. Ieri dicevate di aver paura che gli operai di Sanguigna scoprano qualcosa e ve lo portino via. Io adoro gli scavi e, se me lo permettete, andrò a sorvegliarli. Potrei partire domani sera, dopo i dovuti ringraziamenti a palazzo e dall'arcivescovo. Due giorni dopo, di prima mattina, Fabrizio stava dirigendo i lavori di scavo a Sanguigna, di fronte a Colorno, la Versailles dei principi di Parma. Gli scavi venivano condotti nella pianura che si stende lungo la strada che porta da Parma al ponte di Casalmaggiore, il primo paese in territorio austriaco. Era una bella giornata. Saranno state le 6. Fabrizio, che si era fatto prestare un vecchio fucile a una canna, sparò a un gruppo di allodole. Una, ferita, andò a cadere sulla strada. Mentre la stava cercando, Fabrizio vide in lontananza una carrozza che veniva dalla parte di Parma e si dirigeva verso Casalmaggiore e la frontiera. Ricaricò il fucile. Ora la carrozza era più vicina. Veniva avanti adagio, tutta sgangherata. E Fabrizio riconobbe la Marietta. Vicino a lei c'erano da una parte quello spilungone di Giletti e dall'altra quella vecchia che le faceva da madre. Giletti dovette pensare che Fabrizio stesse lì ad aspettarli in mezzo alla strada e con in mano un fucile per offenderlo, forse anche per portargli via la Marietta. Era coraggioso, saltò giù dalla carrozza. Nella sinistra aveva un pistolone arrugginito, nella destra una spada ancora dentro il fodero, un'arma di cui si serviva quando, per necessità dello spettacolo, erano costretti a dargli qualche parte di nobile. «Ah, brigante!» gridò. «Mi fa proprio piacere trovarti qui, vicino al confine. Adesso ti sistemo io. Le tue calze viola non ti servono qui!» Senza dargli retta, Fabrizio stava facendo il bello con la Marietta e di colpo si vide puntata contro il petto la bocca del pistolone arrugginito. Fece appena in tempo a dargli una botta servendosi del fucile come di un bastone e il colpo di pistola andò a vuoto. «Ferma per la malora!» gridò Giletti al vetturino. Aveva preso il fucile di Fabrizio per la canna, lo teneva in modo da non averlo puntato addosso. Tiravano il fucile uno da una parte, l'altro dall'altra, con tutta la loro forza. Giletti era molto più forte, riusciva a mettere una mano davanti all'altra verso il grilletto. Quando Fabrizio vide che stava per strappargli il fucile, fece partire il colpo per scaricarlo e prima di tirare si era assicurato che la canna del fucile fosse puntata al di sopra della spalla di Giletti. Il colpo esplose vicino all'orecchio di Giletti. Quello rimase per un attimo intontito, ma si riprese subito. «Ah, vuoi farmi saltare la testa, carogna!» «Adesso ti metto a posto io!» Sguainò la spada, si buttò addosso a Fabrizio in un lampo. Fabrizio, disarmato, si sentì perduto e si mise a scappare verso la carrozza, ferma a una decina di passi dietro Giletti. Passò a sinistra della carrozza, si tenne con la mano alla balestra e, curvando stretto, passò di slancio dall'altra parte, vicino alla portiera di destra, aperta. A Giletti, in piena corsa, con le sue gambe lunghe non gli venne in mente di fare lo stesso e, prima di potersi fermare, dovette allontanarsi di qualche passo. Intanto Fabrizio, passando davanti alla portiera aperta, sentì che Marietta gli diceva a bassa voce: «Sta attento, ti ammazza, prendi!» Poi una specie di coltellaccio da caccia cadde fuori dalla portiera. Fabrizio si abbassò per prenderlo e proprio in quel momento fu toccato alla spalla da un colpo di spada. Si rialzò e si trovò addosso a Giletti, che gli diede un colpo tremendo con il pomo della spada, in piena faccia, così forte che Fabrizio perse coscienza. Fu un brutto momento. Per fortuna Giletti gli era troppo addosso per poter colpire di punta e subito dopo Fabrizio si riprese e si mise a correre. Sempre correndo sguainò il coltello, poi si girò di scatto. Giletti era a due passi, ancora lanciato. Fabrizio tirò un colpo di punta. Giletti con la spada riuscì a deviare il coltello verso l'alto, ma fu colpito in pieno alla guancia sinistra. Fabrizio se lo vide passare vicinissimo, ancora in corsa, poi sentì un colpo alla coscia. Giletti era riuscita a aprire il suo coltello. Fabrizio saltò a destra, si voltò, adesso erano a distanza giusta. Poi il duello divenne più lento. Mentre gli attacchi si facevano più radi, Fabrizio pensò: «Dal male che sento alla faccia deve avermi sfigurato». Si buttò rabbiosamente avanti, protendendo il coltellaccio. La punta affondò nel petto di Giletti a destra e uscì in direzione della spalla sinistra. Nello stesso istante, la spada di Giletti penetrò quant'era lunga nel braccio di Fabrizio, in alto, ma era un colpo superficiale, a fior di pelle. Giletti era caduto. Fabrizio venne avanti guardando la mano sinistra di Giletti che stringeva il coltello. Poi quella mano si aprì macchinalmente e il coltello ne scivolò fuori. Fabrizio pensò: «È morto questo idiota». Gli guardò la faccia. Dalla bocca usciva molto sangue. Fabrizio corse alla carrozza. Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it. Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.